9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io! No, tu no, tu no. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di settimana, buon inizio per il lavoro, per tutti coloro che vi ritornano finita l'estate, per gli altri che ancora ci ascoltano invece, che hanno preso dopo Ferragosto qualche settimana di vacanza, auguri anche a voi. Insomma, questo ritorno è un ritorno che per il momento, a mio giudizio, conferma la necessità di continuare ad aprire con Jim Morrison e Enzo Iannacci. Vengo anch'io, no, tu no. Perché? Perché basta vedere i due punti più caldi del calendario di questa settimana di cui parleremo oggi per capire che restiamo sulle solite coordinate. Da una parte un'Italia che cerca il filo di un equilibrio politico all'altezza dei problemi che deve affrontare dopo mesi e mesi di governo tecnico, ma con al centro di questa settimana, cominciando proprio da oggi, il confronto tra le forze politiche sulla riforma elettorale. E riforma elettorale significa, in caso di accordo, in breve, la possibilità c'è di anche accelerare la fine della legislatura e i problemi del dopo Monti. Oggi un'intervista al Messaggero si pone la questione direttamente da parte del ministro Riccardi della cultura politica di cui il governo Monti lascerebbe l'eredità, quindi come parlando già ai successori, e questo è un punto, il punto del politico interno, la riforma elettorale. Ma come avete visto le polemiche che immediatamente partono e si arroventano, le parole pesantissime con cui Grillo ha risposto ieri al giudizio di Bersani, che era altrettanto pesante, perché da una parte dire a Grillo i fascisti blab, dall'altro la replica ma che parli tu che sei un fallito amico di piduisti, ha immediatamente arroventato l'atmosfera. Fini stamane dichiara che il PDL è come Grillo. Insomma, questa è l'atmosfera politica in cui inizia questa settimana, oggi, il confronto sulla legge elettorale. Dall'altra parte, non dimentichiamolo mai, c'è un eurocontesto che resta molto molto agitato dai marosi, non voglio dire come lo tsunami di cui speriamo di capire in poco tempo dopo il terremoto in Salvador se colpirà e quanto grave Centro America, ma insomma i toni restano molto alti. Io comincio di qua, ma innanzitutto vi presento il nostro ospite, perché come tutti i fini agosto, da un po' di anni a questa parte, Radio 24, la mattina con me e anche oggi pomeriggio con la zanzara di Cruciani e Parenzo, è ospite graditissima della kermesse organizzata a Vedrò, una centrale elettrica dismessa e che ospita ogni fine agosto, un incontro intorno ai problemi dell'Italia, non tanto con i politici quanto con rappresentanti delle imprese, manager, società civile, uomini dei media, molti giovani, per fare il punto sulle energie da tirare fuori di fronte ai problemi italiani. E ad animarlo da parecchi anni è Enrico Letta, che è con noi ospite stamattina per commentare. Buongiorno e grazie Enrico Letta. Buongiorno a voi, grazie a tutti gli ascoltatori che ci seguono. Allora, cominciamo brevissimamente anche dal sommario, guardando i giornali europei di ieri e di oggi, ed è un sommario di quelli che un pochino devono preoccuparci. Mercoledì il 29 Monti si incontra con il cancelliere Merkel, e che situazione trova? Trova una situazione nella quale tra lo Spiegel di venerdì e alcuni quotidiani sabato e domenica in Germania Catania. Le parole nei suoi confronti sono pesanti e forti, perché in un'intervista a Spiegel il presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, ha confermato i suoi dubbi pesanti sul fatto che sia consentito dal trattato l'acquisto di titoli dei paesi eurodeboli, di cui si parlerà al Consiglio della BCE del prossimo 6 settembre, ma il leader della CSU, Alexander Dobrindt, in una intervista a Bild am Sonntag, ci è andato molto più pesante, perché ha descritto Mario Draghi testualmente come uno spacciatore di moneta, dicendo che i paesi eurodeboli sono come in realtà dei tossicodipendenti, e così facendo la BCE non fa altro che eternare la loro condizione di tossicodipendenza. Sono giudizi molto, molto, molto, molto pesanti. Su questo sempre Spiegel annuncia nello stesso numero però una circostanza del tutto diversa, cioè quella secondo la quale il cancelliere Angela Merkel si farebbe oramai guidare da un'intenzione per tentare di far sbollire il tema degli aiuti agli eurodeboli, che come avrete capito è oramai il vero filo rosso di tutta la campagna elettorale fino alle elezioni da cui ci separano molti mesi in Germania. L'idea che si sta maturando alla cancelleria tedesca è quella di proporre ai tedeschi un nuovo trattato, non solo ai tedeschi ma a tutti gli euromembri. Articolato su questo trovate un articolo di Eugenio Corsio su Repubblica che articola questa idea. Sono solo anticipazioni, indiscrezioni, non c'è nessun testo né nessuna conferma dalla cancelleria, però non c'è nemmeno nessuna smentita, e è un trattato che articolato in quattro punti sull'unione fiscale, l'unione politica, il ruolo della BCE e anche gli eurobond, farebbe fare un passo in avanti a tutto il dibattito tedesco, che è incentrato su che cosa? Sull'attesa di quello che avviene il 12 di settembre, quando gli otto giudici della Corte di Karlsruhe dovranno dire se l'ESM, cioè il meccanismo cooperativo europeo, è coerente con la legge costituzionale, col Grundgesetz tedesco. In caso contrario potrebbero chiedere un referendum, e questo referendum non farebbe che avvampare ulteriormente le polemiche, con gravi rischi anche per l'Italia, oltre che naturalmente per gli altri eurodeboli. Abbiamo già visto la settimana scorsa l'ipotesi del memorandum, il fake memorandum, il finto, l'ipotesi finta di memorandum sul tavolo del cancelliere avanzato dall'Economist. Nelle due ipotesi, in quella più ampia di uscita dall'euro, cinque paesi sarebbe meglio che uscissero a giudizio dei tedeschi, ma in quei cinque paesi non c'è e non c'è l'Italia, perché sarebbero la Grecia, la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda e Cipro, in ragione del fatto che la nostra posizione netta sull'estero, sommando pubblico e privato, è molto bassa. Il nostro debito è pari solo al 21% del PIL, rispetto a una media tra 80 e 120% degli altri cinque paesi. Vedremo come e se queste indiscrezioni sul nuovo trattato europeo prenderanno forma in Germania, ma intanto sia il Consiglio europeo del 6 sia la decisione della Corte Costituzionale tedesca il 12 rappresentano due passaggi molto delicati. E il 29 Mario Monti riporta l'aggiornamento della sua agenda per la crescita e la stabilizzazione italiana, anche alla luce dell'ultimo Consiglio di venerdì, al centro del confronto con i tedeschi. Inizierei con Enrico Letta, obiettivamente, dalla politica, per poi allargarci all'economia e all'Europa. E ovviamente, Enrico, io devo chiederti un giudizio su queste polemiche di questi due giorni. Insomma, i fascisti del web e il piduista fallito come risposta del Grillo non sono certo una prospettiva molto incoraggiante. Che ne pensi? Ma penso che Bersani ha aperto un tema, poi al di là delle parole uno si può adontare su una parola o su un'altra, ma il tema esiste, il tema è che tipo di partecipazione politica, di dialettica politica Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle propone. Grillo è l'unico leader politico italiano al quale non si possono fare domande, con il quale non si può avere una dialettica e un confronto faccia a faccia. La politica, per forza di cose, deve essere faccia a faccia, domanda, risposta, possibilità di interlocuzione. Tutti noi passiamo le serate in incontri pubblici con cittadini a rispondere a qualunque domanda. La televisione, la radio sono l'occasione di contatto, di domanda, di risposta. Il Movimento 5 Stelle e Grillo in particolare propone un modello nel quale lui lancia il verbo dall'alto, con lui non si può avere nessuna forma di dialogo, e questo verbo, soprattutto il 90% dei casi, è sotto forma di anatema o insulto, che viene replicato e diventa una specie di onda d'urto che appunto la rete ripete. Bersani ha reagito a questo e a quel fatto che questo meccanismo, secondo noi, è un meccanismo che non fa bene alla politica. La politica ha bisogno di trasparenza, di nuove regole, così come oggi non va bene, ma non crediamo che questo tipo di modello sia il modello giusto. Da qui la polemica, credo che sia salutare che finalmente qualcuno abbia preso di petto Grillo, perché quel meccanismo dell'anatema dall'alto, replicato poi come un'onda d'urto che colpisce duramente la persona, è un meccanismo che ha fatto sì che in questi mesi si sia preferito evitare il confronto diretto con Grillo, perché ogni volta erano poi mazzate di questo tipo. In questo senso, diciamo, il termine squadrismo, chiamiamolo così, web, che Bersani ha evidenziato, è un meccanismo che forse è più evidente di quanto si possa immaginare. Noi vogliamo che ci sia confronto, dialettica, chiunque si presenta, chiunque si candida, deve essere in grado di fare faccia a faccia con gli altri, di essere disponibile al confronto e non di sfuggire e di avere questo atteggiamento, che è l'atteggiamento in cui in quel caso si mescola la verve di un comico, oggettivamente superiore alle qualunque altra capacità di dialettica di qualunque altro uomo di comunicazione o politico, perché andiamo verso elezioni in cui i cittadini italiani si aspettano di capire che cosa propongono i diversi partiti, le proposte, i soggetti, e questo deve essere il confronto. Da qui credo questa reazione muscolare di Bersani è assolutamente utile e benvenuta. Il Corriere della Sera oggi, nel suo titolo di apertura, presenta lo scambio di accuse durissime tra il Movimento 5 Stelle e la segreteria del PD come grande rissa a sinistra. E innanzitutto ti chiedo se sei d'accordo con questa definizione. E dall'altra, è come la fine di un lungo periodo, quello nella crescita del Movimento 5 Stelle, che però veniva considerato da chi con benevolenza, da chi meno, dico a sinistra, in quanto espressione di una reazione del grande scontento dopo gli anni di governi Berlusconi e così via. È finita questa lettura nel PD? Ma questa lettura, se c'è stata, è sempre stata molto marginale. Sicuramente è finita, e io penso che il titolo Rissa a sinistra sia un titolo profondamente non corrisponde alla realtà, perché definire il Movimento 5 Stelle come un soggetto politico di sinistra io credo che sia oggi fuorviante, lo dico in questo caso quasi da osservatore. È un movimento le cui tendenze, i cui partecipanti, le cui pulsioni, definirle e metterle dentro una casella di politica classica è probabilmente sbagliato, e l'attenzione deve essere un'attenzione forse maggiore rispetto a categorie che sono completamente nuove. Che la maggioranza degli elettori non strutturati, eccetera, che però in questi anni ha iniziato a rivolgersi, a premiare con percentuali molto elevate il movimento, in realtà, a parte da venire da aree culturali diverse, ma quando ci siamo posti il problema come giornalisti di capirla, molto spesso è animata poi da partecipazione, da voglia di concentrarsi su problemi concreti. Cioè, come si fa a parlare a quei milioni di italiani che di fronte agli altri vecchi partiti dicevano Grillo meglio che la riproposizione, distinguendo rispetto all'inventiva rivolta a Grillo? Distingo chiaramente, esiste tantissima gente che guarda questo movimento, si candida in questo movimento, fa politica in questo movimento perché è l'unica possibilità che trova per partecipare e far politica. Questa è colpa dei partiti tradizionali. Noi cerchiamo di far di tutto per essere un partito democratico che fa partecipare, aperto, le nostre feste, le nostre attività, i nostri congressi. Siamo un partito, diciamo, democratico vero, chi viene, partecipa, vota. Però mi rendo conto che c'è un limite, e questo limite sicuramente ha trovato in quel lato lì una forma di partecipazione. Quindi io distingo, cioè, la maggior parte delle persone che lì partecipano, si impegnano, lo fanno con uno spirito di partecipazione che sarebbe assolutamente assurdo demonizzare e delegittimare. Penso che sia venuto il momento di dire le cose come stanno su Grillo e sui suoi atteggiamenti, su cosa propone e su qual è il progetto se lui vincesse le elezioni, nel quale l'Italia si troverebbe, perché uno che è accreditato del 15 o 20% dei sondaggi, a me, quando in questo ultimo periodo vengono dagli Stati Uniti, dalla Germania, operatori finanziari, persone che devono allocare i loro risparmi in Italia, devono decidere se comprare il debito italiano oppure no, e noi dobbiamo farglielo comprare, perché se non lo comprassero sarebbero guai, e una delle cose che ti chiedono è: nei sondaggi vedo un partito del 15-20%, ma se questo partito vincesse, qual è? Ovviamente è difficile spiegare, perché poi le cose dette fino adesso, e quanto al concetto di destra-sinistra, è molto complicato applicarlo oggi lì. Allora, veniamo alla riforma elettorale. La scorsa settimana, intervenendo al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, tu hai fatto una dichiarazione tale per cui si comprendeva che l'accordo potrebbe essere dietro l'angolo. Da oggi, tra poche ore, si inizia a capire in Parlamento se è così. Chiedo a te due cose. Primo, di fare capire ai nostri ascoltatori, per quanto ti sia possibile, di spiegarci i punti di fondo della riforma elettorale, perché sui giornali si è letto un po' di tutto, un misto greco, spagnolo, tedesco, eccetera, eccetera. Primo. Secondo, c'è un punto politico che abbiamo visto crescere nelle ultime settimane tra i nostri ascoltatori, gli SMS, anche adesso. Molti ascoltatori hanno l'impressione, non capendo questa legge elettorale come funziona, hanno capito una cosa di fondo, magari sbagliata o meno, dici tu, dal tuo punto di vista. Hanno capito che nasce questa riforma elettorale con l'intenzione, tra i tre maggiori partiti, il PD, il PDL, l'UDC, centro, sinistra e destra, di dire: ragazzi, rinunciate a un premio di coalizione, facciamo in maniera tale che nessuno vinca per fare un governo politico, tutto resta come prima. E molti dei nostri ascoltatori hanno detto: beh, questo significa dire agli italiani il vostro voto non serve a niente. Allora, su questi due punti, primo, come potrebbe funzionare? Secondo, la legittimità di questa preoccupazione, che risposta dare? C'è da fare una grande premessa, la grande premessa è questa: questo è un Parlamento nel quale, per quanto riguarda la mia parte politica, siamo in minoranza. Quindi noi non possiamo far approvare la legge elettorale che noi vorremmo. Questo lo dico perché siamo pieni, io sono pieno su Twitter, su tutti i nostri modi di interlocuzione, nei dibattiti, di persone che critica questo tentativo di compromesso. E io sono anch'io in parte critico, perché anch'io vorrei un'altra legge elettorale. L'ideale per noi è il doppio turno. Il doppio turno consente alla maggioranza dei cittadini di poter scegliere, di poter legittimare. Guardate in Francia cosa è successo. In Francia, insomma, alla fine hanno sistemato le cose grazie al doppio turno. Con i sindaci il doppio turno funziona benissimo. Questo è il nostro modello. Ma noi siamo minoranza in questo Parlamento, quindi l'alternativa che abbiamo di fronte è volere il nostro modello e non poterlo realizzare, oppure mettersi a ragionare con gli altri su un compromesso possibile, una legge elettorale di transizione che abbia un obiettivo, che è l'obiettivo che io qui pongo: eliminare il porcellum. Penso che il porcellum sia una delle cause di tutti i nostri mali, perché il porcellum ha introdotto questo meccanismo delle liste bloccate, cioè di un Parlamento nominato dai partiti e non scelto direttamente dai cittadini. Non dico che la causa della delegittimazione della politica italiana sia tutta lì, però sto dicendo l'ha aggravata di molto. Secondo certo. me è una metà del problema questo qua, perché la politica è in giro per l'Europa, è delegittimata, è in difficoltà, ma mai come in Italia, sì. Mai come questo in Italia. Non c'è dubbio. Allora, il tema è: ci vogliamo applicare a trovare il miglior compromesso possibile? Questo è il in termini di metodo, questo lo dico perché non mi si venga a dire: ma sarebbe meglio questo, quest'altro, ma perché state cedendo su questo? Perché un compromesso vuol dire che dobbiamo riuscire a trovare, diciamo, la soluzione la meno peggiore, perché siamo insieme agli altri e noi siamo minoranza in questo Parlamento sui due temi che poni. Il primo: c'è bisogno di un premio di governabilità. Il premio di governabilità è fondamentale per consentire a questo Parlamento che verrà eletto di non tornare ai problemi della Prima Repubblica, cioè una frammentazione eccessiva che rendeva necessarie coalizioni larghe. Premio di governabilità, quindi, questo premio di governabilità, uno dei punti che noi abbiamo posto, deve essere significativo. Non può essere un premietto che fa sì che poi, come dice Bersani, la sera del voto non si sa chi ha vinto. No, la sera del voto bisogna sapere chi ha vinto. Se questo premio consentisse al primo partito italiano di raggiungere il 40% dei seggi in Parlamento, beh, non che c'è... si parla di un premio che potrebbe rappresentare una novantina di seggi. Una cosa di questo genere. All'incirca come oggi è il premio di coalizione che viene dato e che garantisce la governabilità. Secondo punto, la vera anomalia del Porcellum, come togliere questo meccanismo del Parlamento dei nominati dei partiti. E qui ci sono due sistemi. Io sinceramente, proprio per questo spirito di dire eliminiamo il Porcellum a tutti i costi, penso che l'uno valga l'altro. Ovviamente ognuno di noi ha le sue predilezioni, ognuno pensa che sia, però o il collegio uninominale o il voto di preferenza consentono entrambi a me, cittadino, residente nel comune di San Giuliano Terme, di avere la possibilità, quando vado a votare, di mettere una croce sulla scheda o di mettere un nome sulla scheda che mi consenta di essere rappresentato da un parlamentare. Questo è importante per me cittadino, ma è importante per il Parlamento, perché il Parlamento sarà la somma alla fine di un numero di parlamentari tutti legittimati, non come oggi che sono tutti nominati dai partiti. Perché dico tutto questo? E queste sono le due questioni essenziali. Sta in questo momento al PDL dire se ci vuole stare su un meccanismo di questo genere. Noi preferiamo i collegi uninominali. Se loro dicessero collegi uninominali oggi, domani si potrebbe chiudere questa partita. Se loro dicessero assolutamente no, preferenze, noi domani ci ragioneremmo di questo e prenderemmo una decisione. Posso anticipare la mia: se fosse l'unico modo per eliminare il Porcellum, io ci starei. Questo è lo spirito di questa vicenda ed è una vicenda rispetto alla quale io la metto in modo molto drammatico. No, non sono miei temi questi qui, insomma, mi conosci, lo sai, sono temi sui quali io non ho competenze, non ho dimestichezza. Ho però una percezione, la percezione del fatto che il nostro paese è alla svolta finale. La svolta finale è che se la politica non si rilegittima, e cioè non siamo come Francia, Germania, paesi nei quali ci sono confronti politici tra due soggetti, tra due proposte politiche, gli elettori scelgono, il primo ministro è forte e legittimato proprio per questo motivo. Se noi non abbiamo una legge elettorale che consenta di rimettere in circuito virtuoso questo meccanismo, il paese ne ha soltanto danni. E le elezioni decideranno veramente, perché le elezioni decideranno se una maggioranza di centrodestra o una maggioranza di centrosinistra, però con la possibilità del cittadino di scegliere i parlamentari e di avere quindi un sistema di un Parlamento legittimato. Questa è l'aspirazione. Secondo me siamo vicini a tutto questo, spero che non ci siano pasticci finali o non ci sia paura di mettersi dentro un meccanismo nel quale si venga accusati da questo squadrismo del web di aver fatto una cosa che va contro la logica del tanto peggio tanto meglio. C'è una parte, e in particolare Grillo questo fa, ma anche Di Pietro, che rispetto alla politica vuole il tanto peggio tanto meglio. Cioè, ma questo è evidente. Meno riforme fate e meglio è per noi, che possiamo accusarvi di ogni nefandezza. Però, e lo vedo anche qui dagli sms che riceviamo, perché noi venerdì abbiamo avuto una fine di trasmissione molto forte proprio sul tema che a molti ascoltatori arrivava, di questo dibattito estivo sulla riforma elettorale. E cioè, se da una parte hanno letto per un mese questa riforma elettorale è fatta per far rimanere Monti, questa è l'intenzione del Quirinale, naturalmente tutti i giornalisti hanno scritto. Dall'altra poi hanno letto l'intervista di Bersani che dice no, io mi candido a un governo politico. Hanno letto la risposta di Alfano che dice no, la nostra collaborazione con la sinistra di questa stagione di governo dei tecnici è un'eccezione. Allora, l'opinione pubblica secondo me non ha per niente le idee chiare, perché se dovesse passare il rischio di un accordo elettorale fatto per neutralizzare il voto, cioè per impedire un governo politico, io penso che quello sarebbe un enorme regalo alla protesta. Quindi, guarda che quelle due interviste di Bersani e Alfano secondo me sono molto importanti, perché hanno chiarito una cosa che secondo me era già chiara da prima, cioè che è semplicemente assurdo, impossibile, incredibile immaginare che si possa fare una riforma elettorale per precostituire un risultato. Questa è una cosa che non esiste. Si deve fare una riforma elettorale per consentire ai cittadini di scegliere centrodestra, centrosinistra, poi sarà il voto dei cittadini a dover decidere quale governo ci governerà. Questo è quello che vogliamo, e penso e spero che l'intervista di Bersani e poi la risposta di Alfano abbia definitivamente chiarito che il la riforma elettorale serve a questo. Poi si possono fare tantissime critiche su quella che sarà la riforma elettorale che verrà fuori, però vorrei che quello spirito che ho detto all'inizio venga, sia chiaro. Ho capito. Se... io spero che i partiti evitino questo errore, perché se commettono questo errore, voglio dire, l'esplosione sarà. E si capisce perché la gente. Sono d'accordo con te, completamente d'accordo. Va bene, adesso noi andiamo in pubblicità e torniamo tra poco. 9 in punto. Eccoci qua, tornati in studio qui dalla centrale DRO, quindi VEDRO, la kermesse che Ricoletta organizza ogni fine agosto alla ripresa dei lavori politici, deliberatamente però sui problemi e su che cosa dal basso si prepara in Italia. Il titolo di quest'anno è We Can Be Heroes, possiamo essere eroi, da un'idea dello sforzo che l'Italia deve fare per tentare di non andare a fondo. Io sono, lo sapete, un lettore, mi sforzo di essere realista e non ottimista di circostanza sulla condizione economica di un paese che intacca il patrimonio oramai per sostenere livelli di reddito che sono tornati a molti anni addietro per la media degli italiani, che ha delle difficoltà maggiori di quelle dei nostri competitors, che ha delle difficoltà che non coincidono con l'euro, che vengono da prima dell'euro, da prima della globalizzazione, e che a mio modesto giudizio, lo rinvio semplicemente con questo invito a chi ci ascolta, trovano nella modestia, siamo diventati più di 20.000 aderenti in 2 settimane, nei 10 punti che trovate nel sito www.fermaredeclino.it alcune delle inversioni di tendenza che sarebbero necessarie. Lo sapete, la nostra intenzione è quella di dare una mano con questa iniziativa esattamente a rifocalizzarsi sui problemi. Non abbiamo ancora deciso di fare un partito, non stiamo lì a pensare di essere noi salvatori della patria, ma sul debito pubblico, se non si avviano le cessioni di attivi patrimoniali pubblici, e se non andiamo avanti, molto avanti, sulla strada di revisione di spesa da retrocedere però in meno imposte sul lavoro e sull'impresa, cominciando da chi sta peggio, la nostra modestissima opinione è che noi il sentiero della crescita continuiamo a non imboccarlo. Trovate oggi sul Messaggero in apertura, sul quotidiano di Roma, diretto da Mario Orfeo, i particolari dell'accelerazione del piano, dell'inizio del piano di dismissione da parte del governo Monti, e uno dei motivi di mia maggiore insoddisfazione, perché quel piano andava fin dall'inizio del governo considerato come una delle priorità. La mia opinione è che restiamo ancora non in condizioni di convincere i mercati, perché il ritardo di questo piano, il fatto che sia incentrato su GDP, cioè interno al perimetro pubblico, secondo me non convince i players del mercato che davvero si tratta di una volontà di avviare dismissioni. Senza quelle dismissioni il debito pubblico resta appeso ad avanzi primari fatti per via di tasse per molti anni. Io credo che quella strada, dopo 20 anni in cui abbiamo dichiarato di perseguire, quando abbiamo avuto gli avanzi primari li abbiamo sprecati in più spesa corrente, sia una strada rispetto alla quale dire cambiamo strada. Un'alternativa c'è, e rispetto a questo chiedo a Enrico Letta, visto che abbiamo terminato facendo riferimento all'intervista di Bersani e di Alfano dicendo noi ci candidiamo a governi politici contrapposti, su questo la preoccupazione di chi pensa, osservatori italiani, i mercati, se vince questa sinistra, abbiamo letto interviste di Fassina, per esempio responsabile economico del PD, che dice noi ci impegniamo a non toccare la spesa e quindi in questo siamo alternativi. Come si fa senza toccare la spesa e retrocedere al meno tasso e senza eccedere attivi pubblici a immaginare di dare un messaggio per il quale un governo politico di questo centro-sinistra resterebbe sulla strada giusta per convincere i tedeschi, per essere chiaro? Ma il tema della spesa pubblica italiana è un tema aperto da anni, e il motivo principale per il quale è evidente che è un tema aperto è una delle questioni sulle quali so che tu, Oscar, sei sempre stato sensibile e ne hai trattato tantissimo nelle tue trasmissioni: la questione dei crediti che le imprese valutano nei confronti della pubblica amministrazione. Qual è il legame tra questo tema e la gestione della spesa? È semplicemente che siamo l'unico paese europeo nel quale il sistema della pubblica amministrazione è fatto di due mani che non comunicano l'una con l'altra. Una mano consente di spendere e l'altra mano alla fine chiude il sacco e dice sì, ti avevo dato la possibilità di spendere ma non puoi spendere. E chi ci va di mezzo è il cittadino, l'impresa, l'imprenditore, il piccolo artigiano che ha fatto un lavoro e che non viene pagato, nonostante che questo lavoro venisse autorizzato formalmente dalla pubblica amministrazione, che essa sia centrale o nazionale. Quindi che in Italia ci sia bisogno di una profonda revisione della spesa, questo è un tema che va avanti da anni e si è affrontato in tanti modi. Le cose sicuramente sono migliorate, ma il tema rimane apertissimo. Quindi non c'è nessun dubbio che un governo di centrosinistra in futuro dovrà affrontare con profondità questa capacità di togliere l'idea che la nostra pubblica amministrazione è fatta di due mani che non comunicano l'una con l'altra. Anche questa... perché quei 7 punti di PIL, sommando i debiti commerciali e creditiva e fiscale non riconosciuti, e l'effetto del provvedimento, a me dispiace dirlo, ma ci risulta da migliaia di segnalazioni che ci sono venute a Radio 24, l'effetto è stato che quelle parti di pubbliche amministrazioni che non erano in particolare in ritardo nei pagamenti, a differenza di quelle che non sono virtuose e si arriva addirittura ad anni nel sistema sanitario nel sud, avendo visto il meccanismo che consente di iniziare a pagare un decimo entro metà dell'anno prossimo, hanno a quel punto incrociato le braccia pure loro dicendo vabbè, iniziamo a pagarvi anche noi l'anno prossimo. Cioè gli effetti sono paradossali di queste due mani che non si parlano. E l'altro faccia della medaglia è la questione fiscale. Un paese che corre con una zavorra di fisco sulle spalle come quella che abbiamo noi è un paese che non è in grado di recuperare il tempo perduto e non è in grado di correre come gli altri. E qui il tema è fatto di diversi capitoli. C'è un capitolo che Monti sta affrontando con grande efficacia, che è il capitolo dell'evasione, e quindi del far sì che il paese sia in grado di capire, di sapere che l'evasione fiscale è un danno economico e quindi non è una logica da furbetti. E in secondo luogo però c'è il grande tema di scegliere politiche di defiscalizzazione, cioè di individuare alcune direttrici. Io penso che l'Italia abbia tante emergenze, ma ce n'è una che va oltre tutte le altre, e cioè il fatto che noi siamo un paese che ha il 36% dei giovani che né studia né lavora, 36% dei giovani con le braccia incrociate. E quando si sta con le braccia incrociate tra i 20 e i 30 anni la vita poi non la recuperi più. Esatto. A me colpisce sempre, mio padre è un matematico, e mio padre mi dice sempre, guarda che i matematici le vere invenzioni le fanno quando il cervello è flessibile, e il cervello è flessibile tra i 20 e i 30 anni. Poi dopo applicano quelle invenzioni che hanno fatto tra i 20. Ora, se noi siamo un paese che i 20, coloro che sono tra 20 e 30 anni li mette in panchina e aspetta che abbiano il cervello un po' sclerotizzato per farli lavorare, io penso che siamo un paese che non ha capito nulla di come si riesce. Quindi defiscalizzazioni, una in particolare, abbassare le tasse sul lavoro per i giovani e stabilizzarlo questo lavoro, almeno 3 anni, non i 3 mesi che sappiamo. E terzo elemento, lavoro e studio insieme, che è l'altra secondo me grande cosa. Quando abbiamo un percorso di studio, un percorso universitario che ti fa uscire a 25, 26, 27 anni senza aver mai annusato che cosa vuol dire lavorare, il lavoro è tardi, è assolutamente tardi, bisogna sperimentare un ambiente di lavoro a 18 anni, a 19 anni, a 20 anni, studiando insieme magari, sì, con formule. L'Olanda è un modello in questo. L'Olanda ha un tasso di disoccupazione giovanile bassissimo perché ha immesso un meccanismo per il quale si studia e si fa un po' di lavoro insieme, si sperimenta cosa vuol dire avere un datore di lavoro, dover rispettare i tempi, dover rispettare... E questo naturalmente significa anche un sistema per l'orientamento fatto di parte pubblica e fatto di parte privata, per voi che siete in ascolto, un orientamento fatto anche dalle famiglie, perché non bisogna... Io capisco rispetto della vocazione dei vostri figli, adesso parlo come insegnante universitario, però... dovete tentare di indirizzare, di ragionare, non di imporre degli ordini, ma di ragionare, dati alla mano, quelli che riuscite purtroppo a procurarvi, perché le università italiane non sono tenute a dirvi per ogni corso di laurea quanti vengono assunti il primo anno e con quale salario medio, come capita alle università americane. Di quello ci sarebbe bisogno. Però ragionate su come indirizzare i vostri figli e fargli aprire gli occhi sul fatto che non si arrivi a 26-27 anni dicendo assecondato la mia vocazione con una laurea che non serve a un piffero. Ecco, perché c'è anche una componente di società italiana che poi non è in grado di ragionare, sia pure in un sistema di orientamento che purtroppo è a pezzi. Sentiamo alcuni ascoltatori, le domande che rivolgono Enrico Letta. Cominciamo da Tarcisio, che ci chiama dalla provincia di Pesaro. Prego, Tarcisio. Buongiorno. A proposito della legge elettorale, sì. Collegi uninominali, il nome sulla scheda, chi lo scrive? Il partito, la segreteria del partito. Se è così, il cittadino non sceglie niente, sceglie soltanto il colore del partito. Lei preferirebbe le preferenze? Sì. Domanda precisa. La risposta per quanto mi riguarda è che noi faremo le primarie. Il meccanismo del collegio uninominale postula primarie, cioè postula una domenica prima della presentazione delle liste in cui il partito chiama militanti, iscritti, elettori a dire: volete Oscar Giannino o volete Enrico Letta candidato nel collegio di Pesaro? E poi chi viene scelto, il collegio uninominale postula questo, in Italia non lo si è in passato applicato sbagliando e penso che questo debba essere, altrimenti preferenze. Io personalmente non ho nessun dubbio che il meccanismo di una preferenza singola eviti forme di corruzione. Quelle delle preferenze multiple della vecchia Prima Repubblica. Ecco, e crea un meccanismo di assoluta trasparenza. Allora, si prepara Giuseppe alla provincia di Frosinone, subito dopo però l'informazione stradale. Tra un minuto torniamo con Giuseppe. 9 in punto, la versione di Oscar. This is the end. E riparte This is the end. Nel frattempo le agenzie hanno battuto che a Damasco i ribelli hanno abbattuto un elicottero del regime di Bashar Assad. E un'altra delle vicende da guardare con attenzione nelle prossime settimane, non solo per le stragi quotidiane terrificanti che hanno assunto proporzioni quantitative terribili, ma perché temo di dovervi dire che la mia impressione è che le braccia conserte con cui la comunità internazionale assiste alle stragi siriane sono collegate alle tensioni che sono in forte accentuazione sulla vicenda Israele-Iran. Se Israele dovesse nelle settimane precedenti alle elezioni americane decidere un'azione militare sull'Iran, i mercati mondiali e la storia, visto che l'Iran ci ha abituato a capire di che cosa è capace, secondo me potrebbero prendere una piega molto molto preoccupante, e anche di questo purtroppo bisogna tenere conto. Temo che i cittadini siriani paghino l'amaro, sanguinosissimo conto di una comunità internazionale che su questo sta a braccia conserte perché si interroga sull'incapacità e i rischi terribili che ancora una volta nello scacchiere medio orientale ci sono. Sentiamo Giuseppe dalla provincia di Frosinone. Prego Giuseppe. Buongiorno Giannino, volevo far notare che comunque la legge elettorale che stanno preparando è una legge elettorale per non aggiungere a nessuna conclusione. Giuseppe, è esattamente il tema che sollevavo, sì, perché esatto, ha questa impressione? Cioè, domani noi ci troveremo con il PD, il PDL e tutto il resto, si metteranno d'accordo un'altra volta e sarà o Monti o un altro Monti. Poi la vergogna del destino bloccato, scusatemi, ma perché deve esserci della gente che deve perpetuarsi in questo Parlamento? Poi c'è il problema dei programmi, Letta non ci... come Bersani non ci convince. Tra pareggio di bilancio e fiscal compact, 50 miliardi l'anno, dove li prenderanno? Perché la evasione fiscale non è un reato penale con 20 anni di galera come sarebbe giusto, visto i danni di carattere sociale che fa? Perché ok Giuseppe, fermati qua, aspetta, Giuseppe, fermati però, perché hai già posto un po' di questioni serie, si è capito il taglio e la domanda. No, la mia risposta è innanzitutto, ripeto la risposta di prima, la legge elettorale con il premio di governabilità al primo partito fa sì che uno vinca, quindi queste argomentazioni di dire dopo si rimetteranno d'accordo fregandosene del voto non esistono, perché oggi abbiamo tre partiti che sono nei sondaggi, 26-27 il PD, 20-21 il PDL, 19-20 il Movimento 5 Stelle. In una campagna elettorale può cambiare tutto. Se uno di questi tre vince, si ritrova in Parlamento col 40-42% del Parlamento. A questo punto, fosse Grillo... Se vince fosse, Grillo, ragazzi, come ci si diverte. Farebbe un bel governo Grillo Di Pietro, perché avrebbero probabilmente i numeri per fare il governo. Ed è un'opzione molto diversa da quella che ci sarebbe se vincesse il PD. Sarebbe un'opzione diversa da quella che potrebbe esserci se vincesse il PDL. Quindi questo ragionamento, permettetemi di dire, non è vero, assolutamente non è vero, per il tipo di ipotesi che stiamo provando a portare a casa e sulla quale insistiamo noi del PD, perché noi diciamo la legge elettorale deve avere un premio di governabilità alto, non un premietto basso che porterebbe sì in questo caso al rischio che Giuseppe anche di Frosinone dice. Il popolo del PD non so quanto sarebbe favorevole prospettiva nella però quale... lui Giuseppe diceva una cosa molto importante: come si trovano 50 miliardi? perché questo è il vero tema. E 50 miliardi non si trovano facendo 50 miliardi di tagli alla spesa pubblica. Se si pensa che il nostro paese possa sopportare una cosa di questo genere, si sbaglia, secondo me, perché il nostro paese sta vivendo una fase di disagio sociale pesantissimo. 50 miliardi di tagli alla spesa pubblica vuol dire acuire, aumentare questo disagio, far perdere posti di lavoro, abbassare il tasso di protezione dello Stato sociale dei servizi pubblici nei confronti di quella parte di popolazione che ha bisogno, e vorrebbe dire danneggiare il Mezzogiorno. Quindi il tema di fondo è dato, secondo me, da due capitoli. Li cito per titolo perché il tempo è quello che è, ma i capitoli sono: uno, quello di cui parlava Oscar Giannino prima, il tema della gestione del debito pubblico. Noi dobbiamo avere un intervento shock per abbassare il debito pubblico e quindi abbassare il servizio di interesse sul debito, che consenta di risparmiare ogni anno miliardi di euro e averli quindi a disposizione. Il secondo tema è la battaglia europea, per la quale mercoledì la tappa di Monti a Berlino sarà decisiva, che ci consenta, attraverso l'applicazione delle regole decise al Consiglio europeo del 28 e 29 giugno e il sostegno alla linea di Mario Draghi a Bruxelles, di avere una situazione europea nella quale gli spread finiscano. Perché quello che sta succedendo oggi, è il motivo per i quali i tedeschi stanno battagliando così contro Draghi, Monti, è che per loro è l'ideale questa situazione. No, certo, la Germania si avvantaggia. Lo spread è così alto, non ha senso. E il motivo per cui non ha senso è dato da una semplice... I dati economico-finanziari di economia reale della Francia e dell'Italia autorizzano a pensare che lo spread francese abbia 68 punti e quello italiano 450. È una cosa che non ha senso. Non può stare in piedi un'area nella quale un imprenditore italiano deve incorporare 500 punti base in più di finanziamento a qualunque sua impresa rispetto al collega tedesco. Questo è una cosa. E questo qui ha degli effetti sulla spesa pubblica, perché 500 punti di spread vogliono dire decine di miliardi di euro di costi. Quanto ai tagli della spesa, ohimè, su questo io e Enrico Letta forse la pensiamo proprio diversamente. Comunque, noi abbiamo avanzato una proposta che stiamo dettagliando in 5 anni, di 6 punti di spesa corrente in meno, da retrocedere in 5 punti di pressione fiscale in meno. Però, ne parleremo quando ci sarà il dettaglio. Io non penso che quello che tu dici sia impossibile, però attenzione, tu hai detto 6 punti in 5 anni. Sì. No, non sono 50 miliardi l'anno. Non sto parlando di 50 miliardi l'anno, non si può fare oggettivamente. Sono un realistico studioso della finanza pubblica e quindi non mi va di lanciare mongolfiere. Pietro da Udine, prego Pietro, rapido però. Grazie, rapidissimo. Allora, Letta è una persona veramente rispettabile e di grande buonsenso, però le parole che dice, a fronte di tutte quelle che ha detto negli anni prima, restano parole al vento. Perché? Perché tutto quello che ha già proposto non è mai stato provato e lui non ha mai dimostrato che i suoi validi programmi poi non è riuscito a realizzarli per n motivi. Allora, la differenza tra gli attuali membri del Parlamento e chi sta dietro a fermare il declino, come Oscar, così, è la faccia. Ah, sei un sostenitore. Come sempre mi fate fare figura di che poi sono i sostenitori che ho scelto io. Io non le scelgo le telefonate. Comunque, Pietro, vai. Sì, bisogna metterci la faccia, e uno, anche con delle proposte valide e interessanti come fermare il declino, se non sarà riuscito ad ottenere nulla, dovrà dire: scusatemi, ho sbagliato, vado a casa. Ma non è possibile che quelli che sono al momento al Parlamento e occupano il sistema continuino a proporre le stesse cose senza proporre anche delle modalità per misurarsi col confronto tra quello che hanno promesso di fare e quello che hanno realizzato. Va bene, grazie. Grazie Pietro. Però, su questo devo replicare, perché su una cosa sono d'accordo. Auguro anch'io successo a fermare il declino, spero che diventi partito politico, penso che sarebbe una cosa utile, molto utile. Ma sull'altro aspetto sono assolutamente contro, perché il ragionamento che fa Pietro da Udine è un ragionamento che mette tutti insieme coloro che in questi 3 anni e mezzo hanno governato col governo Berlusconi e coloro che hanno fatto opposizione al governo Berlusconi. Io sono tra quelli che ha fatto opposizione, sono tra quelli che ha lavorato perché il governo cadesse e perché ci fosse poi Monti, no, e quello che è avvenuto. Interrompere perché arriva la sera. Diciamo la verità, il bilancio posizione dei 18 anni però dei governi di coalizione di centrodestra e di centrosinistra, ho capito, ma non è che lo si può dare a netto del fatto che la responsabilità maggiore è di Berlusconi, da questo microfono lo ripeto, però è un bilancio in cui le anime diverse del centrodestra centrosinistra quando hanno provato a governare. Boom, però boom, il centrosinistra ha portato l'Italia nell'euro, il centrosinistra ha fatto l'avanzo primario, però... il centrosinistra ha fatto riforme. Beh, insomma. Cari ascoltatori, vediamo se si mettono d'accordo sulla legge elettorale e noi saremo in guardia, per così dire. Però fossero come Enrico, l'Italia non sarebbe così. Questo è il mio giudizio personale. Dice, sono amico di Ricoletta. No, lo conosco da anni, lo stimo. Cioè. A domani. Radio 24. La passione si sente.